Quindi se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. 24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Quando ti chiami Milan non puoi adattarti a normalità, non puoi volare basso. E la locomotiva sembrava fosse un mostro strano. E l'uomo dominava con il pensiero e con la mano. Ruggendo si lasciava indietro distanze che sembravano infinite. C'è stato un servizio molto scadente sulle nostre metropolitane che ha danneggiato la vita delle romane, dei romani e dei tanti turisti che vengono nella nostra bella città ogni giorno, perché ho preteso che da poche settimane i macchinisti della metropolitana timbrino il cartellino in entrata e in uscita. Gli uomini sono tutti uguali. Abbiamo ragione, perché ora vi siete lamentati che c'avete sti cazzo dei pezzi invece di pezzi. Quando va a timbrare la mattina e se scarro 5 minuti per lo stipendio! Devono morire, ecco che devo fare. L'anarchia. Un treno tutti i giorni passava per la sua stazione. Un treno di lusso, lontana destinazione. Trovo anche inaccettabile che a Milano i macchinisti guidano 1100 ore l'anno, a Napoli 950 e a Roma solo poco più di 700 ore l'anno. Pensavo un treno pieno di signori. Non c'è giustificazione, ma dalla fattura i sindacati se vedono per il culo. E li paghiamo noi che lavoriamo nel privato, capito? Se a me col cazzo che tu pi, pezzo di merda. Cosa vuol dire l'orario di lavoro? Fatemi capire, pare che a Roma il clima sia questo per prendere una metropolitana. Erano i diverbi macchinisti passeggeri. Ma cioè, come facciamo a non dare ragione a Marino? Io ero non solo addentro alla questione, ma cioè, ha voluto il badge per i lavoratori dell'ATAC, no? Dei treni metropolitani. Cioè, beggiate. Orario di apertura, di lavoro, orario di fine lavoro. E c'è uno sciopero bianco. Casualmente ci sono treni che non vanno, scioperi bianchi, nel senso così, scioperi improvvisi, scioperi selvaggi, gente che finge di avere malore, non si presenta a lavorare. Ma com'è possibile? Ma che paese è? Basta! Ma che... Basta! Basta! Che paese è? Un treno di lusso, lontana destinazione. Quant'è che lavorano a Milano 1100 ore, a Napoli 900, a Roma 700 i macchinisti l'anno? E i pendolari, insomma, se la son presa così. Com'è che i pendolari, com'è che... Il secondo audio, quello così, coi macchinisti, no? Scambi di opinioni, più o meno, L'hanno presa bene, l'hanno presa bene. Rabbia antica, generazioni senza nome. Abbiamo ragione, perché ora vi siete lamentati che c'avete sti cazzo dei pezzi invece di pezzi. Non vuoi vedere il mio pezzi quando va a timbrare la mattina? Se sgarro 5 minuti, me li dà. Se sgarro 5 minuti, a me li tolgo dallo stipendio. Come devono morire, ecco cosa, devono morire. Sono le 6:36 minuti, oggi entriamo con un clamoroso ritardo perché vabbè, c'è gente che sfora nei tempi, funziona così a Radio 24, che dobbiamo fare. Saluto Lorenzo Nespoli in redazione, Peter Bescapè in regia, apriamo il Parlamento, salutiamo tutti e ce ne andiamo. No, sì, più o meno, abbiamo quasi finito. Ancora prima di iniziare. Allora, dai, c'è il mercoledì con la nostra Paola Saluzzi. Adorato. Tu l'hai presa una metropolitana? Posso dire? Beh, 2015, no! Evviva le rosse, torna, ma diventa evviva la Paola. Oggi pensavo di salutarla. E Paola Saluzzi, special guest, Paola Saluzzi e altri pettizi di cui non ce ne frega assolutamente, assolutamente nulla. Non è vero, non è vero, ma accidenti, Marino ha ragione. Oh, ma diciamolo qui al di là di... Io vado in macchina al lavoro, sì. Perché vado in macchina al lavoro, questo è. Perché sennò non ci arrivi. Tra l'altro, ma quello che è successo con le metropolitane ieri è stata una vergogna. Ma ragazzi, ma che paese è quello in cui un normale... Io sono stato questo weekend a Malta, e anche a Malta, che è un paese civile, tu sali sull'autobus, per dire, una roba che non c'entra niente, ma è un mio vecchio pallino, sali sull'autobus e il conducente ti fa il biglietto. Cioè, come in tutti i paesi del mondo civili, non che devi prendere il biglietto al tabaccaio, eccetera, così la gente non paga. Davanti alla porta c'è l'omino con la sua cosa elettronica, dove va, 2 euro, prego. Se no giri e scendi. Ma in una giornata come quella di ieri, che potrebbe essere quella di domani, quella dell'altro ieri, sciopero bianco. No, lo sciopero bianco, sì, ma diranno che non è vero, che adesso prenderanno i numeri, diranno no, guardate i numeri alla mano, le corse sono state... In realtà i pendolari si accorgono subito quando c'è qualcosa che non va, non arrivano i treni. Poi se la prendono disgraziatamente con quelli che lavorano magari lì e che stanno arrivando. In quel momento sono lì al lavoro e stanno facendo quello che devono. Esatto. Invece puntualmente i fantasmi non è ci chiaro, sono. È chiaro. Vabbè, dai, salutiamo ricordo, anche il nostro... Roma capitale, sì? Roma capitale. Capitale. Noi siamo capitale. La capitale. Noi siamo la capitale. Paese. Noi siamo il Milan, invece. Bene, non parlo oltre. Dai, salutiamo il nostro direttore Luca Divi. Eccoci qua, direttore di Vanity Fair. Tu prenderei cosa faresti a quelli che fanno dello sciopero bianco lì? Non si può dire. No, dai, io li licenzierei in tronco proprio, per perdere il lavoro. Proprio licenziati in tronco. Perché dove sono i sindacati? Cioè, difendere i diritti di chi lavora onestamente significa punire chi ci prende per i fondelli. Ecco, esatto, l'hai e detto. Chi abusa. E l'hai detto in tono così, no, licenziato! So che è Oscar Giannino, esci da me. C'è Oscar Giannino che ogni tanto fa capolino qui a Radio. Vabbè, come state? Tutto bene? Al di là dei disguidi romani, qua si parla solo di Grecia. Ieri ho visto una combattiva Paola Saluzzi, ma io devo dire una cosa, però diciamo, ti ho visto ieri e mi sono perso un attimo, che è successo a un certo punto che il leghista stava dicendo una roba una cosa che ed è entrato in onda uno del PD che in sottofondo ha detto, ma me la sono persa, ma l'ha davvero insultato? No, nel senso l'ha davvero insultato, è successo questo, che Salvini aveva detto che Putin è meglio di Renzi, fosse molto meglio di Renzi. Io ho chiesto conferma al senatore che era presente e c'è stato un commento non fuori onda ma fuori audio, nel senso che si è sentito. Ma che era? Cioè, che gli ha detto? Ma no, ha detto ma che vergogna, ma come si permette, ma insomma, però insomma sono gli animi erano un po' accapigliati. Si sono un pochino accapigliati, ma insomma non è stato niente di grave rispetto a quanto non stia accadendo altrove. No, infatti. Ma che succede con la Grecia? Ma voi l'avete capito? No, io ho capito una cosa dai giornali, che ci sono 5 giorni, questo hanno dato alla Grecia. Ho capito che Tsipras si è presentato a Bruxelles in pratica senza un piano, o meglio il piano era quello solito. Il piano è: mi servono 7 miliardi subito, 30 miliardi in 2 anni, vorrei mantenere l'esenzione fiscale per le isole greche e vorrei mantenere la riduzione dell'IVA per il comparto del turismo e ristrutturare il debito. Al che l'hanno guardato e gli hanno detto fai un po' te, no? Vuoi anche un paio di bottiglie di champagne e qualcos'altro? Magari tassare gli armatori non sarebbe una cosa sbagliata. Magari provvedere a fare delle riforme che gli vengono richieste, è chiaro, non sarebbe sbagliato. E soprattutto presentarsi con un foglio scritto non sarebbe sbagliato. Sì. Vabbè, non so. Ma però vabbè, ci sono qua. 5 giorni. Tu, Luca Dini, questa storia della Grecia l'hai capita? Ti sei fatto, cioè, nel senso che ormai ognuno ha un'idea. Tu si è preso un po'. Ma io ho la stessa idea della settimana scorsa, che si è gridato tanto, ci si è riempiti la bocca della parola democrazia. In realtà, i greci hanno votato non capendo che cosa votavano. Gli è stata scaricata sulle spalle la responsabilità di un disastro. Quindi secondo me il governo si è comportato in modo irresponsabile. Irresponsabile. Ho visto ieri che un altro bel leghista, Buonanni, ha detto in Europarlamento che l'euro è carta igienica. Certo che se comandassero quelli come lui e Tsipras lo sarebbe davvero. Vabbè, tu l'hai chiesto Buonanno che dice la carta igienica, e tu l'hai chiesto e noi te lo facciamo sentire, la carta igienica, eccolo qua, l'hai voluto tu, Ci sono due carte, questa è quella dell'euro e questa è la carta igienica. Secondo me oggi in Europa è più importante questa di questo con il vostro lavoro. Questa è la carta igienica, ovviamente. Al macero, non state facendo quello che interessa al popolo. E quindi lei ti ha colpito. Con Juncker ce l'aveva, ti ha colpito. Lo fa il vulcolo che interessa al popolo. Esatto, certo. Ma è una mania quella della carta. Sarebbe tutta Grecia. Cos'è una mania della carta igienica? No, scusa, chiedo, interrotto. Che mania è? No, illo tempore, mi ricordo che fu Bossi che disse che con i altri con colore. Il tricolore il famoso ognuno ha i riferimenti che merita. Eccola, salutiamo ovviamente tutti i nostri amici leghisti. Ma scherzo. Non si può, è veramente vergognoso. È come una storia di Renzi peggio di Putin, dai, veramente. Cioè, Renzi peggio di Putin anche. Lo dovevi vedere ieri come combatteva Paletta Saluzzi, no? Non si può sparare. Ecco, l'ha detto, ce l'aveva lì, Paola, ce l'aveva lì, doveva dirlo. Vabbè, comunque, insomma, io quello che voglio dire è che spero per i greci, per il popolo greco, perché parliamoci chiaro, ma secondo voi Varoufakis, che già ha preso la sua moto, se n'è andato veleggiando verso università americane, probabilmente avrà problemi? Credete che Tsipras soffrirà mai la fame? Ma non è che li voglio affamare con questo, no, ma quelle scene del pensionato che piange davanti alla banca, no, disperato, cioè è quello il rischio, e questa è la cosa che mi fa più male. Li vorrei affamare. Oggi Luca Diri si è svegliato così, Paola. È carichissimo. È carico a molla. No, va detto questo, che c'è un paese che ha fatto sicuramente ha dato una prova di sé, cioè ha detto io voto no. Il problema è che ora ci si trova di fronte alla proposta Juncker, l'ultima, quella su cui Juncker aveva detto mi sento tradito, non avete neanche letto quello che vi ho proposto, sì. E si ritrova a quell'ultima proposta che non era stata neanche guardata, quindi è come se fossimo tornati indietro e la grande, grandissima manifestazione di domenica fosse stata una grande, grandissima manifestazione che però politicamente, attenzione, non moralmente parlando da parte del popolo greco, ma politicamente parlando da parte del governo greco, non porti a nulla, cioè a uno stato. No. A uno stato, allora, greco, politicamente ha legittimato, ha reso più forte Tsipras, però in realtà poi dopo devi portare ti presenti lì e a io Bruxelles. Due volte, è la seconda volta che ti legittimo, anzi, ora ci sono anche i partiti che lo stanno legittimando, anche quei partiti che gli hanno detto benissimo, siamo con te, andiamo a Bruxelles. Bene. Con quale tipo di proposta? Intanto perché noi poi le borse non impazziscano, sì. Lo so che è un sistema tutto... No, perverso, è un gatto che si morde la coda. Va bene, d'accordo, ma... sentite qui ieri quando abbiamo avuto Forchielli, la nostra voce irriverente. Sentite qua Forchielli come definisce la Grecia, Non ne usciamo più, la Grecia è un gattino attaccato ai maroni, diamogli da mangiare, diamogli un po' di benzina, capito? Evitiamo la catastrofe umanitaria, condoniamogli gran parte del debito, ma che sia morta lì, capito? C'è un gattino attaccato ai Maroni. Questa è l'immagine di Forchiele. Che invece di Varoufakis, che lui chiama Scarciofakis qui da tempo, vede così, lo vede così. Ah no, sta buono, guarda che questa cosa qui sono distrutto, sono uscito di Scarciofakis. È un demagogo, cinico, disonesto, che usa l'intelligenza per sé, non per il suo popolo. Eccolo lì, il giudizio, il giudizio. Ha ragione da vendere, dici. Sì. Lo so. Dai, facciamo così, andiamo a sentire il traffico, poi ritorniamo con Paola Saluzzi, Luca Dini. A Milan, io voglio sentire il traffico. 24 mattino. Milan mattiniero, bala beaut dell'informazione. Alexandros, Milanos, Varifanculos. Vorrei dire basta a questa classe politica che va a fare la passerella di prima donna in Grecia con la pancia piena in mezzo alla gente con la disperazione. Basta. Quando tutto è perduto, la stampa imbavagliata, le edicole distrutte, i giornali in crisi, serge a difesa dei deboli ed oppressi lettori italici un uomo uscito dalla fantasia di uno scrittore, Alessandro Milan, un nome e una garanzia di libertà, Alessandro Milan, Varoufakis degli italici lettori, Alessandro Milan, il magnifico stallone, no, pardon, il magnifico strillone. Vabbè, come al solito, porte aperte, Paola Saluzzi e poi rientro. E quella Alexandros. Con un finale un po' così, un finale inaspettato. Vabbè, allora. Aiuto. La nostra segreteria, aiuto. No, non la vostra segreteria, aiuto tutta la situazione. Vabbè, aiuto. In Italia, però almeno questo ha annullato un po' il dibattito politico italiano, no? Su cioè il dibattito politico italiano oggi, per esempio, sui giornali è Renzi che dà le pagelle ai suoi parlamentari per come vanno nei talk show, e Bocciati e promossi, e attenzione Paola, perché adesso prima di invitarli dovrei avere Bocciati e promossi, e quindi alla promossi ci sono Fiano, Emanuele Fiano, poi la Picerno promossa, poi invece Bocciati o rimandati c'è Davide Faraone, la Francesca Puglisi, cioè non sanno vendere bene la comunicazione del governo, e quindi gli dà le pagelle Renzi. Però questo credo sia sempre accaduto, forse è la prima volta che le pagelle vengano pubblicate, o viene reso pubblicamente. Credo che non volesse che fossero rese pubbliche. Ecco, ma chi lo sa, chi può dirlo? Chi insomma, può dirlo? Comunque siamo lì e scopriremo chi sia più bravo. Perché adesso dovrei, prima di invitare uno, dovrei dire: è stato promosso, bocciato da Renzi. Allora mi sa che non viene. Se è stato bocciato, io lo chiamo, ma sarà lì tutto abbacchiato a studiare, a fare ripetizioni. Insomma, prima di presentarsi in TV. Se hai voglia di chiamare ancora di più quello abbacchiato. Esatto. Esatto. Vabbè, io voglio sottolineare due articoli che ho trovato su Vanity Fair. Uno è un viaggio a 70 anni da Hiroshima. Aspetta, cosa c'è in copertina? I segreti di Star Wars esclusivo. Ma che vuol dire Star Wars esclusivo? Non so niente, Luca. Arriva un nuovo Guerre Stellari. Sì. Ma con Harrison Ford. Eh sì. Torna Han Solo. Ma è incredibile questa cosa. Arriva dopo 10 anni il sequel più atteso. E quando arriverà? A fine anno. Attenzione, arriva Star Wars, arriva Guerre Stellari. Tu te lo ricordi, Paola? Guerre Stellari. È una religione, Guerre Stellari. È un'attesa spasmodica. Ora, non faccio parte di quelli che vanno in giro col casco bianco o nero. Più uno più otto, arriva, della mia vita. Arrivano per casa. Arriva tra 10 anni. Dopo 10 anni arriva, no, a fine anno. Dopo 10 anni arriva entro fine anno. No, ma non è questo. L'articolo che mi ha colpito molto è l'intervista che avete fatto a Tess Holliday. Chi è Tess Holliday? È una modella. Caratteristiche, Luca, si può dire? Sì, lo dice lei. Grassa. lo dice lei, non dite curvy, non dite plus size, ma chiamatemi per come sono, grassa. Grassa, e evidentemente, cioè se uno la vede effettivamente le foto è discretamente grassa, ecco, proprio... Notevolmente grassa, e fa la modella. E, beh, insomma, è un messaggio molto interessante. Cioè, che vuol dire in questa intervista questa ragazza? Ma lei è una modella ed è anche una specie di attivista, nel senso che va in giro per le scuole a parlare ai ragazzi, a spiegare che ci sono molti motivi per cui uno è com'è e che sostanzialmente si può essere belli così e ci si può piacere anche così. Sembra una banalità detto in questo modo, però penso che quando hai 16-17 anni invece sono cose... A me è chiaro, se va nelle scuole a dire a ragazzine di 16 anni, di 15 anni, che in realtà il messaggio è questo, mi sembra, è per quello che mi sembra una cosa da sottolineare. Paola, te la sottopongo, è interessante come intervista. Assolutamente, la leggerò con la massima cura, anche perché se da un lato c'è un problema, let's move della Michelle Obama, insomma, sì. Si deve evitare, in particolare per i ragazzi, la pessima alimentazione, tutto quello che si vuole, quando sei comunque di fronte a quella situazione fisica per cui il mondo ti rimanda dei modelli opposti e tu puoi farti seriamente male, ma ben venga che una donna, una ragazza, venga a dire, va bene, ok, abbiamo tante curve, no, siamo grassi, sono più grassa del solito. E quindi apri un varco, e questo è un valore. Eh sì. E lo trovate sul numero di Vanity Fair, mentre la nostra Paoletta combatterà anche oggi tra Putin e Renzi, tra bocciati e promossi, tra Alexandros. Vaffanculos, diciamo. Alexandros. Il tema di base è Alexandros. E vediamo che cosa diamine andrà a succedere. Apro e chiudo parentesi, ma non per fare quella che ci mette sempre il puntino, sì. Ma ieri così è sfuggita, ma non certo come notizia, insomma, 111 bambini sequestrati a Mosul dall'ISIS, con altri 78 uomini che stavano tentando di proteggere questi ragazzi tra i 10 e i 15 anni, prelevati da scuola, sì. E si vanno a rinforzare, a rimpolpare il numero che vede ormai 1420 bambini sequestrati in un anno dall'ISIS. Fossero stati bianchi, pensa fossero stati tra Milano, Firenze, Roma, 1420 bambini sequestrati. Terribili, come io ho dimenticato da due settimane, ed è colpa mia che la nostra Paola Saluzzi ha vinto il premio Marisa Bellisario per l'informazione, da due settimane che me lo dimentico di dire, la nostra Paoletta. Ma mangiamo sesta mele, non ne mangiamo più. Col premio, tra un po' posso twittarlo? La foto? Lo faccio tra poco. Vi devo salutare, un abbraccio. Buona giornata, 50 gradi, Alexandros, forza. Il segnale orario vi è offerto da Formaggio Gran Moravia, l'unico con l'etichetta multimediale della filiera ecosostenibile. 1, 2, 3. Adesso tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Eccoci qui alle 7:18 minuti, cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessandro Milan, come di consueto anche oggi andremo in onda fino alle 9:30. Parleremo di... vi voglio fare questa domanda alle 8:15. Vegani o no? O mangiate la carne? Parliamo di questo oggi. Parliamo di questo, sì. Avremo ospite Mauro Corona, scrittore. Avremo ospite Paola Maugeri, conduttrice televisiva, vegana. E il vostro parere, 800 24 00 24, sembra che sia il nuovo dibattito, insomma, che si è imposto all'attenzione. L'alimentazione è una cosa importante, e quindi che ne pensate, insomma? Pensate che mangiare la carne sia da assassini? E ne parliamo dalle 8:15, poi parleremo anche dello sciopero a Roma, lo sciopero bianco nei trasporti, la questione di Roma capitale. lo scioglimento, non scioglimento del comune di Roma. Ieri mi hanno detto al comune, di consiglio comunale. Sì, mamma mia, la parte per il tutto. Dai, non siate pignoli, è la parte per il tutto. So anch'io che c'è una differenza tra il comune di Roma e il consiglio comunale di Roma. Quanto siete pedanti a volte, alcuni di voi, molto pignoli. Va bene, dai, 7:19 minuti, andiamo a leggere i giornali. Mercoledì 8 luglio, i titoli intanto: Grecia, fumata nera, cadono le borse, così apre Il Sole 24 Ore. Per il Corriere della Sera c'è questa... c'è questo ultimatum: intesa in 5 giorni o Atene fallisce, la linea dura dell'Europa. Anche Repubblica, Unione Europea, Grecia fuori in 5 giorni. Il Fatto Quotidiano: il piano disperato di Tsipras 24 ore prima della Grexit. Per Il Giornale: la Merkel tiene la Grecia e caccia Renzi. Il Messaggero: l'Europa dà 5 giorni alla Grecia. La Stampa: Europa, ultima chance per la Grecia. Libero: Atene ci dà l'ultimatum, fuori altri 7 miliardi. L'Unità: Stati Uniti d'Europa, Tsipras chiede 7 miliardi di aiuti ma nasconde il suo piano. Per vedere il primo titolo favorevole a Tsipras bisogna leggere il manifesto. Euro disprezzo, Juncker squalifica il referendum all'Europarlamento, mentre Avvenire mette il prezzo dello stallo, ed è questo: in Grecia 40.000 licenziati negli ultimi giorni, una cifra terribile che fa capire come tutto poi si ripercuota sul popolo, sulla gente. Qui invece che succede? Ma ieri l'abbiamo detto un po' come boutade che era uscita su un paio di giornali, ma pare davvero che Renzi faccia le pagelle con tanto di promossi e bocciati per coloro che vanno nei talk show del Partito Democratico. È abbastanza incredibile, ma oggi molti giornali dedicano mezza pagina su questo. Tommaso Labate racconta, pagina 13 del Corriere, che a partire da domattina una persona dell'ufficio stampa del PD dovrà guardare i talk show a cui partecipano esponenti del partito e stendere un report. Dobbiamo capire chi va meglio e chi va peggio, chi funziona e chi no, perché così non si può andare avanti. Questo è quello che ha detto Matteo Renzi ai suoi: bisogna comunicare meglio. Allora, intanto fatemi esprimere le condoglianze al responsabile del Partito Democratico che dovrà guardare tutti i talk show per questo. Ma detto questo e chiusa parentesi, certo, un dipendente del Nazareno è stato incaricato di schedare i piddini presenti in TV, anche perché ci sono già le prime pagelle. I promossi quali sono? Udite, udite: promossi per Renzi, cioè efficaci in TV, Anna Scani, Filippo Taddei, responsabile economico del PD, Simona Malpezzi, e a Strasburgo degli eurodeputati Pina Picerno, che ha combattuto con Salvini dopo quella performance quando Salvini gli ha detto signorina e lei ha risposto molto duramente, da credo all'Arena di Giletti, è stata promossa. Ernesto Carbone, un altro promosso, mentre invece vanno così così la responsabile scuola Francesca Puglisi, da rivedere, e anche Davide Faraone, sottosegretario all'istruzione. Questi sono stati un po', come dire, devono migliorare nella comunicazione. Pagelle per i Dem, ospiti dei talk show, chi sale e chi scende nel registro del Nazareno. Così sul Corriere, ma anche Repubblica: volti Dem in TV, Renzi vuole bucare, quando si vuol dire bucare lo schermo, cioè comunicare in maniera efficace. Anche per il Fatto Quotidiano: Renzi pensa ai talk show, Bonafè bocciata. Ecco, tra i bocciati c'è anche Simona Bonafè. Per esempio, ci sono i consigli proprio pratici sul Fatto Quotidiano che Renzi ha dato ai suoi deputati: non guardate Twitter mentre siete in onda, quando siete ospiti di talk show rischiate di essere influenzati dai troll, prima lo facevo sempre anch'io, adesso ho capito che è meglio evitare. Anche perché di fronte a qualcuno che gli ha detto però i talk show sono tutti orientati contro di noi, dovete imparare a non cadere nel tranello. Insomma, i TV e i giornali sono visti come i nemici in questo momento di Renzi, soprattutto nemici della comunicazione renziana, e quindi bisogna andare lì pronti, preparati per attaccare nella comunicazione in maniera decisiva e non farsi trovare impreparati. Va bene, questo per quel che riguarda i promossi e bocciati. Devo parlare di un paio di notizie di cui ci siamo occupati anche qui a 24 mattino. Ricordate, non più di 3 giorni fa ci siamo occupati della banda di straniere che borseggiano nelle metro e sugli autobus di Milano, nelle stazioni, i turisti stranieri, e lo fanno con molta scaltrezza, con molta capacità e soprattutto tenendo in braccio i numerosi figli che hanno. Alcune sono anche incinte. Questo per evitare di essere messe agli arresti. E infatti il giudice ha deciso solo che possono essere allontanate dalla città di Milano. Sono state riarrestate anche ieri. Le mamme borseggiatrici del metrò, eccole qui, hanno 25 figli già arrestate 78 volte. Gianni Santucci, pagina 18 del Corriere della Sera. Alessia, 29 anni, 9 figli, 115 identificazioni delle forze dell'ordine, 49 denunce, 16 arresti. Marta, 21 anni, 4 figli, 152 identificazioni, 24 denunce, 25 arresti. Fanisa, 29 anni, 5 figli, 24 denunce, 8 arresti. Seira, 23 anni, 4 figli, 68 denunce, 22 arresti. Debora, 20 anni, 3 figli, 27 denunce, 7 arresti. Voi dite, con un curriculum così, cioè, non lo so, si troveranno a fianco di Totorina in carcere? E invece no, il 27 giugno le hanno arrestate di nuovo, tutte insieme. Gli agenti dell'unità reati predatori della polizia locale di Milano, in metro, alla stazione centrale. Una per rubare aveva al collo il figlio di 3 mesi. Tutte insieme, quelle ragazze rom, 2 bosniache, 3 italiane, negli ultimi anni hanno messo insieme un curriculum criminale elencato in decine di pagine, 192 denunce, 78 arresti, furti, furti con strappo, furti con destrezza. Insomma, borseggiatrici professioniste. E ci raccontava il GIP di Udine Florit a questi microfoni che non si possono mettere in carcere. Il massimo che il giudice ha potuto fare è stato allontanarle dalla città di Milano. Non possono stare a Milano e in tutte le città dove ci sono le metropolitane, perché loro lì sono brave a rubare. Ci spiegava il giudice che la legge non consente di incarcerare una persona se il reato previsto non prevede una pena di 3 anni, e quindi è inutile. E allora ecco come si lega la notizia che c'è su Repubblica a questa notizia: c'è il piano del governo. Il governo contro furti e scippi, triplicate le pene minime. Se venissero triplicate le pene minime, portando a 3 anni di carcere la pena minima per furti, borseggi, ecco che allora si potrebbero mettere in carcere. Liana Milella, pagina 15 di Repubblica. Promessa garantita da indiscrezione, adesso messa su carta in procinto di essere formalmente depositata alla Camera in Commissione Giustizia. Sta per materializzarsi una forte stretta del governo su scippi, furti in casa e rapine. I reati più avvertiti dagli italiani, quelli che minano la sicurezza della propria casa, la possibilità di muoversi liberi in strada. Per questo il governo ha elaborato aumenti di pena mirati soprattutto a evitare che scippatori, ladri e rapinatori, una volta arrestati, vengano rimessi in libertà. Eccola qui, è proprio la notizia, è la svolta che ovviamente è solo annunciata, ora va fatta, e che però qualche giorno fa abbiamo detto era quella fondamentale per permettere a queste persone di essere arrestate. Per una volta, scrive Repubblica, sono d'accordo PD e NCD, tante volte in conflitto, ma decisi in questo caso a sostenere insieme i cambiamenti. Ecco come saranno modificate le pene per i reati di furto in abitazione e furto con strappo, è l'articolo 624 bis del codice penale. Resta invariato il tetto di 6 anni della pena massima, ma la pena minima passa da 1 anno a 3 anni. Ed è la modifica rilevantissima, perché triplicare la portata della pena minima cambia la natura delle conseguenze penali del gesto criminale commesso. Ce l'ha spiegato benissimo il GIP Florit. Se c'è una pena minima di 3 anni si può mandare in carcere, se non c'è la pena minima di 3 anni è inutile e non si può mandare in carcere una persona. Io dico, non annunci, ma fatelo immediatamente, nel giro di pochi mesi e che sia esecutiva questa cosa. Ovviamente noi staremo all'occhio a vedere se succede. Vi devo raccontare per il premio Mani sul Volante, l'articolo che ci fa più incazzare della giornata, un'altra vicenda che abbiamo affrontato in passato. Ricordate l'insegnante in Sicilia che usufruiva della legge 104, quella per accudire i parenti, e invece di accudire il padre è stata pizzicata ad andare a fare il tango con il compagno, credo partecipando anche a una competizione europea di tango? Ve la ricordate? Simone Di Meo, giornale. Prof usava i permessi per ballare il tango. Per il GIP non va punita. Danno lieve per lo Stato e quindi va prosciolta. Il giudice di Palermo, accogliendo la richiesta del PM, peraltro, ha dovuto riconoscere la non punibilità della docente di matematica che invece di accudire il papà se n'era andata ad Amsterdam col compagno argentino. Questo perché l'iniziale accusa di truffa è stata derubricata in indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, che non prevede il processo per importi inferiori ai 3.999,96 euro. E siccome lei, assettandosi da scuola per 7 giorni, ha indebitamente incassato solamente 400 euro, non è punibile, non è processabile. È prosciolta. Va bene così. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano. Alessandro Milani, il giornalista che fa impazzire mia mamma. Addirittura, va bene, adesso non esageriamo, caro ascoltatore, piccolino piccino, va bene. Allora, a me mancano 12 albe prima delle vacanze e tutte le volte che lo dico mi risponde con grande passione il nostro amico, sta diventando amico, Paolo Escavatorista, meno 18, a lui alla pensione. Caro Paolo, guarda, ti chiamiamo, ti giuro, l'ultimo giorno di lavoro, se possibile, o il primo giorno di pensione, se vuoi ci sediamo al tuo cellulare, ti chiamiamo in onda. Paolo Escavatorista, credo 35 anni a fare questo lavoro più o meno, e in bocca al lupo. Ovviamente mancano 18 giorni alla pensione di Paolo Escavatorista. Bene, allora, la Grecia invece mancano 5 giorni, questa è la data che trovate un po' su tutti i giornali, 5 giorni e poi c'è il rischio davvero del default greco e del disastro. Anche se un po' di disastro c'è già, se è vero che Avvenire mette questa cifra impressionante, i numeri poi della crisi, al di là di tutto quello che si dice, 40.000 persone in Grecia sono state licenziate negli ultimi giorni, 40.000 persone, altro che il debito pubblico, la liquidità della BCE, questa poi è l'economia vera, reale, il costo sociale, 40.000 licenziati in pochi giorni. Pagina 6 di Avvenire, leggete questa cifra. Intanto che è successo? È successo che in pratica Tsipras si è presentato ieri a Bruxelles, così racconta tutti i giornali italiani, con nulla di concreto in mano. E infatti ecco qua, pagina 3 del Corriere, Tsakalotos, che è il nuovo ministro all'economia dopo Varoufakis, Tsakalotos si presenta a mani vuote, la missione impossibile dei pontieri. In realtà il Corriere della Sera racconta, pagina 5, è una pagina utile questa, quelli che sono le richieste di Atene e le richieste di Bruxelles. Scrive il Corriere con Lorenzo Salvia: non è vero che il piano non c'è da parte di Atene, c'è un piano. Tsipras si è presentato e che cosa chiede? Chiede un prestito ponte da 7 miliardi di euro per far fronte ai debiti in scadenza, poi chiede 30 miliardi nei prossimi 2 anni. Nel suo piano c'è l'IVA agevolata per gli alberghi e le strutture turistiche, che dovrebbe restare al 13% senza salire di 10 punti come chiesto invece dall'Eurogruppo. In più Atene vuole il mantenimento dello sconto generale del 30% dell'IVA per le isole. Il vero nodo poi riguarda la ristrutturazione del debito. Già prima del referendum c'erano state diverse formulazioni. Atene chiede che non ci si limiti a una dichiarazione di principio, ma che a Bruxelles venga preso un impegno concreto. Il governo Tsipras chiede che l'imposta sulle società resti al 26% senza salire al 28%, e rispetto al piano Juncker vengono dimezzati tutti gli aumenti dei contributi chiesti per garantire l'equilibrio del sistema pensionistico. Questo è quello che vuole Atene. Cosa vuole invece Bruxelles? Vuole riforme su previdenza, lavoro, fisco e privatizzazioni. Bruxelles spinge l'innalzamento dell'età della pensione a 67 anni entro il 2022. La Grecia su questo avrebbe accettato, procrastinando però l'entrata in vigore della riforma a chi andrà in pensione dopo il 31 ottobre. E già questo è irricevibile per l'Unione Europea. Sul lavoro, qui la dialettica è molto aspra perché investe il programma politico di Syriza, che vorrebbe ripristinare il sistema di contrattazione collettiva. Questo significherebbe un aumento dei salari inaccettabile per l'Unione Europea. Fisco, qui si gioca molto intorno all'IVA. E poi, insomma, queste sono le tematiche, per cui è interessante capire quali sono i punti in discussione. Pagina 5 del Corriere, c'è una pagina utile. Comunque 5 giorni anche per Renzi, racconta Marco Galluzzo sul Corriere della Sera, che sta seguendo il Presidente del Consiglio. Il clima è peggiorato, ora Tsipras faccia la sua parte. Questa è la linea del governo italiano. E staremo a vedere. Certo, sono 5 giorni di passione. Domenica è stato convocato un vertice, un consiglio straordinario a 28 dell'Unione Europea. Domenica. Questo a dire che questa è la settimana, va detto, decisiva per Atene. Veniamo alle cose italiane, veniamo a Roma. Oh, noi ci occuperemo dalle 9.05 del possibile commissariamento o scioglimento del Consiglio Comunale di Roma e anche dello sciopero bianco. Ma vedete cosa sta succedendo a Roma? Abbastanza incredibile. Siccome il sindaco Marino ha messo il badge da timbrare per i dipendenti dell'ATAC, c'è uno da 2 giorni, scrive il Corriere anche oggi, uno sciopero bianco, cioè treni che non vanno, treni, metro, coi passeggeri infuriati, ma giustamente infuriati. Parleremo anche di questo, ma la notizia più importante è che la relazione di Gabrielli, del prefetto Gabrielli, ha portato a un parere negativo sullo scioglimento, cioè 4 ore di confronto, come scrive il Corriere, opinioni divergenti, discussione serrata, alla fine però sarebbe prevalsa la linea del prefetto Gabrielli e del capo della procura di Roma Pignatone sul no allo scioglimento per mafia del comune di Roma. Domani o al più tardi venerdì lo stesso Gabrielli consegnerà la relazione al ministro dell'interno Alfano, e Alfano poi dovrà decidere. Non è stato un comitato di routine, ma un comitato in cui si è discusso appunto di questo. Campidoglio, no allo scioglimento, passa la linea dura con i dirigenti. Anche il Messaggero titola così: no allo scioglimento, ma bisogna commissariare i dipendenti collusi. C'è da dire che sul Messaggero c'è il gelo del PD. Un retroscena, pagina 10. Qualunque sia il verdetto, per Marino è difficile andare avanti così. E invece lui, Ignazio Marino, bello bello, tranquillo e sereno, anche oggi fa un'intervista all'Unità, a pagina 2 e 3, e dice: io vado avanti, sono tranquillo, sono sereno. Marino: ho l'adrenalina e cambio anche la giunta. Intervistato da Rossella Ripert, il sindaco di Roma: sulla legalità abbiamo voltato pagina, ora mi concentro su trasporti, asili, strade. Posso dire ciò che ha detto il procuratore Pignatone: c'è una netta differenza tra l'epoca della giunta Alemanno e l'epoca della giunta Marino. E dice ancora il sindaco di Roma: mi sento in questo momento come quando in sala operatoria togli il fegato al paziente. Il sangue va in una circolazione extracorporea, devi montare quello nuovo, sai che ogni punto deve essere messo millimetricamente al posto giusto. In 40 minuti hai finito, l'organo riprende a funzionare, i parenti fuori che aspettano da ore non lo sanno ancora, ma tu già lo sai che ce l'hai fatta. Ecco, io mi sento in corpo l'adrenalina di quel momento. il giro di boa è avvenuto. Ora dobbiamo far capire alla città quale cambiamento culturale c'è stato. È il momento in cui mi sento meglio. So che tra poco le buche delle strade saranno tappate, arriveranno i nuovi autobus, verranno inaugurate più scuole per l'infanzia, avremo la possibilità di curare il verde, potare gli alberi senza arricchire la criminalità. Metteremo mano alla viabilità. Ora, insomma, la città può cambiare. È un Ignazio Marino, dunque, che vede ottimismo a tutto spiano davanti a lui. Su questa vicenda c'è da registrare anche la lettera che Salvatore Buzzi, capo della cooperativa in carcere, 29 luglio, spedisce al Fatto Quotidiano. Scrive a Marco Travaglio, quello che definisce il più giustizialista. Ribadisce di non essersi mai interessato ai centri di bambini handicappati. Non mi stanno sequestrando beni per 16 milioni, ma riguarda il commissariamento della cooperativa. E dice Salvatore Buzzi, continua a ripetere che non ho corrotto nessuno. Posso solo dire che non ho avuto il coraggio di denunciare la corruzione. E alla fine dice anche, mi dichiaro estraneo al sacco di Roma, sia dei Lanzichenecchi, sia di Adarico. Ovviamente la prende un po' alla lontana, anche con una certa dose di autoironia. La risposta di Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano: gentile signor Buzzi, lasciamo stare il sacco di Roma, lasciamo stare anche il Papa e anche il giustizialismo. Lei è accusato di mafia, corruzione, cioè essersi associato con un ex terrorista nero legato alla banda della Magliana e altri pregiudicati come lei, nonché di aver ottenuto appalti pubblici retribuendo politici e pubblici funzionari. Non lo diciamo noi, lo dice la Procura di Roma, il GIP, il riesame, la Cassazione. Lei potrà difendersi. Insomma, la risposta di Travaglio, comunque Buzzi scrive al Fatto Quotidiano. Ti associo a Travaglio, non a Buzzi, Mauro Meazza, caro Mauro Meazza. Buongiorno Alessandro. No, metto le mani avanti. Sì, vabbè. Facciamo finta di crederci. È un po' di cosine da segnalarti oggi. Giornata ricca, già appunto hai segnalato le nostre pagine greche e vorrei anche spezzare una lancia, dice ancora spezzare una lancia? Tu spezzala. Vorrei segnalare appunto l'andamento della borsa cinese che non è buono, ne riferiamo oggi a pagina 7, c'è un po' di calo pronunciato negli ultimi tempi, ma se leggi sul Sole 24 Ore ti spieghiamo tutto a pagina 7, dopo le abituali ormai 50 sfumature di Grecia che ogni giorno ci tocca raccontare, perché questo non è male, lo hai detto il tu, nostro cabarettista preferito. È venuta così, lasciamola cadere senza rincalare. Volevo dire a Paolo Escavatorista, a cui faccio i migliori auguri per la sua prossima pensione. Mentre, scusa, ci scrive nel frattempo Michele Saldatore di Gorizia, per me 11.200 albe alla pensione. No, ecco, allora per Michele il Saldatore devo dire che dovrebbe vedere sulle pagine enorme tributi, perché essendo stati adeguati i coefficienti, insomma, per una tecnicalità nell'erogazione dell'assegno, dal 2016 le pensioni diventano un pochino più basse, perché... Aia. Sì, perché campiamo di più, per fortuna, però anche quanto lo Stato poi ci riconosce, come dire, si va a diluire nel tempo. Ma anche per Paolo l'escavatorista? Perché se ne va nel 2015 e quindi lui non ha riduzione, Paolo l'escavatorista. Oh, poi ti voglio dire, i due eurini, quelli lì che avevi messi negli Stati Uniti, no, perché guarda che abbiamo finalmente recepito il FATCA. Sarebbe a dire che abbiamo un'intesa complessiva con gli Stati Uniti per uno scambio di dati, quindi se i tuoi due eurini li hai messi a New York, convinto che non lo venissimo mai a sapere, invece lo verremo a sapere. Evaristo ti scrive ancora? Volevo dirgli che oggi, ieri sera, insomma, all'ultimo momento, prima dell'invio del 7.30, l'Agenzia delle Entrate ha diffuso una circolare, ma ha precisato che la proroga per l'invio del 7.30 a 23 luglio vale anche per chi ha fatto il fai da te, cioè quelli che hanno utilizzato la precompilata e hanno fatto tutto in autonomia. Lo trovi tutto, tutti i particolari su Norme e Tributi. Poi c'è una notizia incredibile, Cioè, Radio 24 dal lunedì a venerdì aumenta gli ascolti nonostante le nostre chiacchierate mattutine. Anche noi non riusciamo ad abbatterla. Non riusciamo ad abbatterla, addirittura più 4,4% ho letto sul Sole 24 Ore, è quasi sconcertante. Senti, invece la scuola è importante, giornate quello sì decisive tra oggi e domani per il voto finale. E poi un'altra cosa che vorrei ricordare, ne parliamo sulle pagine Imprese e Territori, c'è stato un primo blitz per abbattere degli ulivi colpiti dalla xylella. È vero, ecco. Ha molto colpito, un blitz militare proprio alle 4 del mattino per evitare che qualcuno impedisse questi abbattimenti, 45 infatti, ulivi. È una vicenda abbastanza dolorosa. E poi senti, ci sarà lo stadio per il Milan, forse. Sì, sì. Fanno uno stadio praticamente, pare uno così. Stadio per Alessandro Milan, intestato a me, per ospitare tutti gli ascoltatori, no, forse non basta neanche. E adesso ci vorrebbe il sì del consiglio comunale, ma insomma vedremo che fare. Un'ultima cosa, nel disegno di legge delega sulla riforma della pubblica amministrazione c'è una possibilità che il PRA, il pubblico registro automobilistico, dall'ACI passi al ministero, con il che avremmo una sorta di rivoluzione, perché ridurremmo la documentazione burocratica legata alle automobili. Perché te ne parlo? E chissà. Perché devo dirlo? Traffico! Alessandro Milan! Ma che cazzo è Alessandro Milan? Questo è uno dei migliori, devo dire. 0246524492 è la nostra segreteria telefonica se volete mandare le vostre sigle. Oh, ma sapete che è passato un mese da quando ci sono alcuni migranti sugli scogli a Ventimiglia al confine della Francia? Ormai non se li fila più nessuno, ma sia il Secolo XIX che il Corriere della Sera oggi dedicano una pagina proprio perché domani sarà un mese da quel 9 giugno quando si presentarono i primi sugli scogli respinti dalla Francia, dissero stiamo qui finché non riusciremo a passare. I venti irriducibili sugli scogli, staremo qui anche un anno. Marco Menduni racconta da Ventimiglia a partire dalla storia dell'etiope Meselec che dal primo giorno è qui e dice rimarrò e posso rimanere anche un anno. Non ho nulla da perdere, indietro non torno, non ho un soldo e i francesi non potranno bloccarci per tutta la vita. Qualcosa deve accadere. Temperatura che racconta il Corriere ieri arrivava a 40 gradi sugli scogli. Per il Corriere, per la verità, ieri erano in 51 in questa tendopoli improvvisata che poi sono teli attaccate agli scogli sotto cui dormono e si riparano dal sole. Anche Marco Imarisio racconta, pagina 21 del Corriere, i migranti dimenticati sugli scogli di Ventimiglia che dicono un giorno passeremo. A proposito di migranti, è interessante ciò che scrive Repubblica, pagina 14. Uno dei leader fondatori del Movimento 5 Stelle, Casaleggio, ha preso carta e penna, come raccontano Diego Longhin e Sara Strippoli, ha preso carta e penna e ha scritto a Chiamparino, presidente della Regione Torino. Perché? Perché Casaleggio al Buon Retiro a Settimo Vittone, paese tra Ivrea e la Valle d'Aosta, e lì potrebbero arrivare alcuni profughi ospitati in una struttura alberghiera. Casaleggio non vuole i profughi vicino a casa sua. In una lettera scritta dal suo avvocato, indirizzata al presidente della regione Chiamparino e all'assessore all'immigrazione Cerutti, Casaleggio espone le perplessità rispetto alla possibilità che un gruppo di immigrati provenienti dal Nord Africa possa essere ospitato a Settimo Vittone in un hotel. Una presa di posizione inviata anche al sindaco di Settimo, alla ASL e alla prefettura di Torino. Per il legale, cioè l'avvocato, è un senso di umanità da parte di Casaleggio. Comunque questa è la vicenda raccontata da Repubblica. Che dire, abbiamo un minuto? In un minuto voglio solo raccontare che su Libero è fotografato, un minuto e mezzo, è fotografato su Libero, giuro, il nuovo yacht mimetico di Lapo Elkan. Lo yacht mimetico, dopo il SUV c'è lo yacht mimetico, Lap One. Si chiama così, Lap 1, Lapo Elkan, varato ieri alla Spezia, lo yacht mimetico di Lapo Elkan. se c'è periscopo lo posso anche fare vedere. Questo è lo yacht mimetico, per gli amici di periscopi. Intanto siamo alla carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali, eccolo qua. Un altro sul caldo. L'intervista all'esperto sul giorno. Donatella Barbetta intervista l'esperto che dice: mangiate piatti freddi, mica l'abbacchio da 6 kg. Mangiate tanta frutta, mica la roba che ti rimane qui sullo stomaco tipo un frittone. Mangiate i gelati, mica che ne so, una roba bollente. L'esperto dice anche: rinunciate alla giacca, non mettetevi il montone da 4 kg sulle spalle. Che fa caldo. Ma chi se ne frega? Il segnale orario vi è offerto da Formaggio Gran Moravia, capolavoro della filiera ecosostenibile. Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan. Che devozino via fuoco. Milan, il cagnasso randaggio dell'informazione. Se fossi tua moglie, quante botte ti darei? Quando parli, sembri laureato in tuttologia, sai tutto tu. Allora, cari ascoltatori, sono le 8:20 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Intanto una domanda, perché ne parleremo più avanti. Come va a Roma? Le metropolitane circolano, ci sono scioperi bianchi dei macchinisti? No, ne parleremo alle 9, perché pare che da quando il sindaco Ignazio Marino ha voluto far timbrare i macchinisti, ci sono corse che non passano, treni metropolitane che non vanno, e i pendolari sono arrabbiati. Dalle 9 ne parleremo, prima però parliamo di altro. Fino alle 9 parliamo di questo tema. Devo introdurlo raccontando un episodio. Era il 2006, mi trovavo a San Pietroburgo. Vado su consiglio di alcuni amici in un ristorante che si chiama Udacni Vistrel, che vuol dire l'arciere fortunato, perché in quel ristorante soprattutto si serve cacciagione, e ho provato la carne di orso. Lo devo dire, ma nei miei giri nel mondo, insomma, quando mi è capitato, ho provato anche la carne di coccodrillo, la carne di kadu, che è un antilope in Sudafrica. E lo so che molti di voi nel sentire questo racconto già mi considereranno malissimo, quasi un mostro, un omicida, perché per alcuni siamo ciò che mangiamo, e chi mangia carne sbaglia dal punto di vista etico, dal punto di vista morale. E guardate, non vogliamo entrare nell'approccio salutistico, non vogliamo stabilire qui, non è nostro compito, se mangiare troppa carne faccia bene o faccia male, ma sull'aspetto culturale mi interessa questo approccio, perché uno dei dibattiti odierni che più accalora e appassiona è proprio sull'alimentazione. Io devo dire, io che sono carnivoro moderatamente, quando ascolto un mio caro amico vegano, è vegano lui, lo ascolto e mi parla delle convinzioni morali che lo hanno portato a questa scelta, e io che questa scelta non la condivido, lo rispetto molto, anzi sono appassionato, lo ascolto rapito, ammirato, cioè colgo il motivo per cui ha fatto questa scelta di non mangiare carne. Allora, vegani o carnivori? 800 24 00 24 per intervenire in diretta. Vi voglio far sentire il parere di Farinetti, quello che ha fatto Hitler, lo sapete, lui la pone anche dal punto di vista politico, sentite. E io uscivo da un convegno con Veronesi, quindi potete immaginare che mi aveva fatto due palle sui vegetali. Ecco, io a 60 anni vorrei restare di sinistra e carnivoro, certo meno di sinistra di quanto lo sia stato a 20 anni, e molto meno carnivoro. Ora esagero, vorrei essere di sinistra e meritocratico, come pure animalista e carnivoro. Vorrei essere animalista e carnivoro, dice Farinetti, ma si può? Intanto voglio girare questa domanda a uno scrittore, alpinista, uomo di montagna, anche cacciatore, Mauro Corona. Buongiorno Corona. Buongiorno a voi. L'ultimo libro è I misteri della montagna, Arnoldo Mondadori. Si può essere animalisti e carnivori, Corona? Beh, certo, perché no? Ad esempio, uno può mangiare la carne sempre rispettando anche le scelte altrui, può mangiare la carne, uno però può anche non tollerare che degli animali si ammazzino per fare delle pellicce, ad esempio. Ecco un esempio, che si può mangiare la carne ma non tollerare che vengano oppure massacrate le oche, stellate vive per avere il piumino da imbottire i giubbotti. Ecco, in questo modo si può essere anche carnivori e nello stesso tempo fare delle scelte drastiche su certe massacramenti di animali. Sì, però quando uno ammazza un animale, poi che lo mangi o che faccia una pelliccia, gli animalisti dicono l'hai ammazzato una volta che l'hai ammazzato. No, un conto è fare il fighetto a Cortina con la pelliccia d'inverno, un conto mangiare perché si ha fame. Io sono andato a caccia per mangiare, non perché non avevamo i soldi di recarci in macelleria a comprare la carne, per cui è molto diverso ammazzare un animale. Certo, l'ammazzamento c'è comunque, ma uno è per mangiare o anche per il gusto di mangiare la carne, senza bisogno della necessità estrema per crepare di fame. Dall'altro invece c'è l'imbellettamento della pelliccia, lì non ci sta più. Questo non ci sta più. Allora Mauro Corona, le voglio presentare Paola Maugeri, giornalista, presentatrice TV di Virgin Radio. Buongiorno Paola, buongiorno. Buongiorno a voi. Settimana prossima. Ciao Mauro, buongiorno. Settimana Alessandro, prossima, buongiorno. Eccoci qua. In libreria uscirà il tuo nuovo libro Mondadori alla salute e Paola Maugeri è vegana da 16 anni. Allora, che sono un mostro perché ho mangiato la carne d'orso, dimmelo, se lo pensi non c'è problema Paola. Non lo penso affatto. Che dici allora, si può essere rispettosi degli animali ma anche carnivori? No, per me assolutamente no, nel momento in cui siamo degli adulti nel 2015 che quindi non abbiamo bisogno di mangiare la carne per necessità perché non ci troviamo in condizioni antropologiche esasperate che ci portano a fare questo gesto, a questo punto no, non è mangiarla, non è indossarla, non è farne scarpe, non è torturarli dentro dei lager, è un rispetto di qualcuno che è in questo pianeta Terra, esattamente come noi, alla ricerca di un pizzico di felicità e che soltanto non può denunciare le nefandezze che vengono perpetrate nei suoi confronti soltanto perché non ha voce, ma che se ne faccia carne o che se ne faccia uova o che se ne faccia latte o che se ne faccia pellicce, per me è un atteggiamento totalmente sbagliato su tutta la linea. Gli animali sono nostri fratelli, non sono né sudditi né cose né macchine, quindi questo è il mio punto di vista, sì. È assolutamente morale, sono vegetariana da 34 anni e vegana da 17, quindi capisci bene che, come dire, sono scelte che mi definiscono ormai da sempre. Ma certo, infatti è interessante dire che è una scelta morale, perché deriva da qui, cioè il convincimento etica. Parte da questo, certo. È una scelta etica, è questo che è maturato in te, una scelta etica per completo rispetto nei confronti degli animali. Ma io ho cominciato molto presto, a 12 anni, non avevo ovviamente la cultura in una famiglia siciliana, 34 anni fa sono cresciuta a Costolette di Maiale, ma a un certo punto non capivo perché mi si insegnasse ad amare gli animali, a riconoscerne i versi, a rispettarli in qualche modo e poi mangiarli, no, quella non è una forma di rispetto. Ovviamente io non avevo la capacità critica e intellettuale per poter porgere questi argomenti ai miei genitori, ma ho detto non mangerò più animali, solo anni dopo ho scoperto che si chiamava essere vegetariani. E poi crescendo hai elaborato, diciamo, certo, però se pensi lo facciamo ancora oggi, sì. Guarda la gallinella, guarda il pecorino e poi alla fine siamo lì a farne bistecche, quindi è un'incongruenza di fondo della nostra cultura. L'incongruenza è interessante, però Mauro Corona, quello che dice Paolo Maggeri, dice non c'è bisogno di mangiare carne, cioè storicamente adesso non è così necessario, si potrebbe vivere anche senza carne. Ma che discorsi, anche senza la moda, ma se guardiamo a ciò che è necessario, e noi siamo necessari, lo diceva lo stesso Borges, è necessario la malattia, il mal di denti, la morte, e noi siamo necessari, noi se guardiamo a ciò che è necessario, no, non serve più niente. Allora però uno può anche piacergli la carne come un altro gli piace il caviale, un altro gli piacciono i dolci, un altro gli piace, insomma, se guardiamo a ciò che è necessario, ma allora è necessario che 12 ragazzi carcerati stiano in una stanza con una latrina. Se guardiamo il termine necessario è fuorviante, voglio dire, oggi non siamo nelle condizioni, non ce n'è bisogno, nel senso da, mentre un tempo possiamo scegliere, è diverso, sì. Non è né necessario né non c'è bisogno, ma questa è chiara, la posizione. Volevo finire il discorso perché se cominciamo a cavalarci le cose, io metto giù e me ne no non mettere giù Mauro. Una discussione, un concetto è come fare l'amore, bisogna portarlo a termine, se no c'è un coauto interrotto. Prego, prego. Prego Mauro. No, ormai il mio concetto ormai è stato un po' sbranato. Se ardiamo per necessità, io invece dico che io non mi scaglio contro i... Sono stato vegano anch'io 2 anni, ogni tanto mangio carne. Ah, sei stato vegano? Io lo sono stato per motivi, diciamo così, di disintossicamento dall'alcol, di salute. Però non mi scaglio, ognuno fa quello che vuole. Però quando c'è la fiera della caccia a Longarone, che sento, ognuno ha il diritto civilmente di convincere invece che protestare, invece vado giù, c'è la fiera della caccia a Longarone, arriva del Garda. Io posso entrare alla fiera della caccia anche per vedere di un coltellino, di un binocolo, di un paio di scarpe, e invece mi sento dire assassino, io non ho ucciso nessuno, tranne qualche camoscio, capito? Assassino, crepa tu, crepa le tue figlie, noi camosci. Ehi, ci vuole, io vorrei essere convinto con dolcezza, con del ragionamento. Non ti piace l'atteggiamento un po' radicale talebano, diciamo. Noi diciamo fondamentalisti agli islamisti a tutti e poi siamo i primi a tacciare di assassino uno che va alla fiera della caccia. E questo fondamentalismo un po', Paola Maugeri, c'è in alcuni, ovviamente, in alcune frange. Questo fondamentalismo c'è dell'indicare, del dare dell'assassino. Per questo io ho detto, ma in maniera brutale, sono un mostro e ho voluto raccontare questa cosa della carne dell'orso, perché lo dovevo dire. Sì, ma così allora puntiamo sulla spettacolarizzazione, Alessandro, non arriviamo No. Questi non saranno mai i miei toni, non li ho mai usati, non mi interessa questo tipo di tono. Allora, come si convince Mauro Corona, come dice lui dolcemente, che è sbagliato mangiare carne? Nessuno di noi può dire di essere vegano o vegetariano di seconda generazione, o forse un gruppo veramente sparuto. Io sono cresciuta mangiando carne, i miei bisnonni avevano una macelleria, i miei genitori avevano una pellicceria. Io ho semplicemente trovato in tutto questo, nella mia storia, nella mia biografia personale, un'incongruenza che anche mi definisce nelle mie scelte. Quindi io, questa è la mia storia, tu stai intervistando me ed è questo che ti dico. Io non mi permetterei mai di chiamare assassino nessuno, perché sennò dovrei chiamare assassino i miei genitori che mi hanno cresciuto con la carne. Loro sapevano fare quello, massimo rispetto per il fatto di come mi hanno cresciuta. Io ho fatto delle scelte diverse, quindi andare ad apostrofare delle persone che mangiano carne come assassini, sicuramente non otteniamo quello che vogliamo. Quindi non sono assolutamente per questo atteggiamento, che vi prego di non definire talebano, perché comunque è un atteggiamento, usiamo la parola radicale, che mi sembra che radicale. Non offende e che definisca una scelta in toto. Quindi assolutamente con dolcezza si convince attraverso il proprio esempio, vale più il proprio esempio che mille parole. Io non voglio convincere nessuno stamattina, credo che tu mi abbia chiamato per portare la mia testimonianza, la mia esperienza. Assolutamente sì. Quindi è soltanto questo, non quegli estremismi, io sinceramente stamattina li lascerei da parte, ognuno sente e vive come è giusto che faccia, ognuno ha un proprio modo di stare al mondo. Questo è il mio, di massimo rispetto per tutti gli esseri viventi, che è quello che trovo che sia anche oggi giusto, perché noi oggi abbiamo la grandissima capacità di scegliere. Se io fossi una madre etiope con 4 figli in un'altra condizione, probabilmente non sarei vegana, ma sono una madre occidentale, posso scegliere e questa è la mia scelta di vita a 17 anni. Punto. Io vorrei chiedere a Mauro Corona se la frase "siamo ciò che mangiamo" è una frase che corrisponde al vero anche dal punto di vista filosofico, culturale, o se invece no, una cavolata. Assolutamente, siamo ciò che mangiamo, siamo ciò che leggiamo, siamo anche ciò che camminiamo, anche il modo di camminare. Ma io vorrei recuperare una constatazione che ho fatto. Perché non si parla mai dei pesci? Anche loro sentono male, o no? Sui pesci nessuno dice niente, sterminio di balene, le scorfani, aragoste arrostite vive nell'acqua bollente, che di questo non sento mai parlare nessuno, perché i pesci non sentono male. Ma i vegani infatti non mangiano neanche pesci. Ma non parlano solo degli animali a 4 zampe, a 2 zampe, o degli uccelli, o con le ali. C'è forse un'empatia, molti animali d'affezione sono con le 4 zampe. Non parla nessuno, dei pesci non parla, e badate che oggi non mi riferisco al nostro dibattito con la signora Maugier, ma in generale chi è che parla dei pesci? Mai sentito? Io alle fiere, no, invece sentono male anche loro, e come sentono male? Certo. Allora siamo coerenti, il vero coerente muore di fame, perché anche l'erba, uno studio dei giapponesi, hanno messo dei sensori raffinatissimi e quando strappavano un piede di insalata o di radicchio, questi sensori si muovevano, perché anche loro sentono male, le piante sentono male quando li metti dentro la motosega. Allora crepiamo di fame se siamo coerenti. Mm. Ora quella mia è una battuta, certo. A livello anche abbastanza banalotta, però... Voglio sentire parlare dei pesci di tutti gli esseri viventi. Chi colleziona le farfalle le inchiora con un ago, siamo totali. Però il rapporto con la natura è un rapporto, tu che vivi poi in una straordinaria terra dove la natura insomma la dove fa da padrone. Ucciso in una terra dove hanno ucciso 2000 persone, nessuno ha pagato, se vogliamo andare veramente all'etica. Sì. Sì, beh, questa è una vicenda diversa, però... Certo, ma volevo dire che bisogna pensare agli animali, sì, ai pesci, anche alle farfalle, ma anche agli esseri umani. Sì. Perché qui si sta proteggendo la natura e non più l'uomo. Paola, su questo volevi... Allora, innanzitutto, certo, quando io parlo di carne sia terrestre che marina. Chiaro, io ieri sul mio blog ho pubblicato un post proprio sui pesci che ha avuto migliaia e migliaia di condivisioni e di persone che sono entrate a leggerlo, perché spesso non si parla di questo, perché i pesci non possono gridare, eppure è una delle forme più terrificanti di ecatombe di tutti i tempi, perché noi i mari li abbiamo svuotati. Se un giorno mio figlio volesse assaggiare il tonno rosso quando sarà adulto non potrà più farlo, perché li abbiamo sterminati, finiti. Quindi questo è un problema grossissimo degli oceani, che sono sempre più vuoti e sempre più veramente vilipendiati, e questa è una cosa che si ripercuoterà moltissimo sull'equilibrio ecologico, eccetera. È ovvio che parliamo anche di essere umano, Mauro, è proprio la compassione che impariamo da chi non ha voce ma solo grandi occhi all'interno dei quali noi possiamo guardare che miglioriamo il nostro modo di stare al mondo, la nostra dignità che non è mai negoziabile, e abbiamo più attenzione poi per l'essere umano. Per me essere vegano significa avere una grande lente di ingrandimento che mi insegni in ogni ambito della mia vita come comportarmi, come essere una madre, come essere una moglie, come essere una buona datrice di lavoro, come essere un'amica. Questo è il senso della scelta etica di essere vegano. È una forma di rispetto che si estende a tutti gli esseri viventi, è ovvio all'uomo, qui nessuno sta parlando, la natura noi l'abbiamo offesa, deturpata, eppure continua a darci, continua a offrirci. Le piante soffrono, le piante sono sensibili ma non hanno un sistema nervoso, attenzione, sì. Quando noi tagliamo comunque un ramo di un albero, il ramo ricresce, se io taglio la zampa di un maiale non ricresce più, quindi attenzione ai livelli di sofferenza, io non sono qui per morire di fame, io sono per nutrirmi con il minor danno possibile. Facciamo punto, così, perché se no entriamo in un estremismo e non ne usciamo più. Ripartiamo tra un attimo dopo la pubblicità con Paola Maugeri, voglio ricordare, ha scritto il libro Alla Salute, uscirà settimana prossima, ce ne parlerai tra poco, così come Mauro Corona, scrittore, I misteri della montagna, stiamo parlando di questo rapporto tra noi e il cibo, essere vegani o essere carnivori, la maggior parte delle persone sono diciamo si trova in una fase mediana, diciamo mangiano magari della carne ma non tutti i giorni. Che ne pensate? Siamo con voi tra tre minuti. Allora, le 8:41 minuti, siamo con Paola Maugeri, con Mauro Corona, vorrei sentire anche qualche ascoltatore all'800 24 0024. Claudio da Torino, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io sono vegano da 4 anni, ho 47 anni e quindi ho fatto questa scelta in età avanzata, diciamo. Sì. Mi trovo molto bene, onestamente, dal punto di vista fisico, per aver fatto questa scelta. Scelta che ho fatto inizialmente non per motivi etici, ma per motivi salutistici all'inizio. Sì. Più che altro spinto dal fatto che non sopportavamo più né mia moglie né io, perché entrambi siamo vegani, l'odore della carne cotta. Ah, vabbè, avete fatto questa scelta. Questa scelta. E dice, si trova benissimo, si trova bene. Però, mi trovo bene. È una scelta dettata, voglio dire, all'inizio ci ha spiegato come, ma adesso la porta avanti per convincimenti etici più che... La porto avanti anche per convincimenti etici, nonostante mi renda conto che probabilmente le nuove ricerche di cui Corona citava stiamo dimostrando che anche le piante si trovano a poter soffrire, quindi questo è un momento di imbarazzo. Però quello che ho notato io, più che il convincimento etico, più che la forza di cui si parlava prima durante la trasmissione, cioè cercare di convincere gli altri a trasformarsi vegani, io ho avuto l'esperienza opposta. No, ma è chiaro, Claudio, non bisogna anche infliggersi un'autosofferenza privandosi del cibo perché anche le piante soffrono. Ma io ho capito quando Paola Maugeri dice che essere vegana per lei è una scelta di vita che va oltre la scelta nutrizionale. professionale, vuol dire essere una mamma migliore, una donna migliore, un essere umano migliore, e che sono le stesse cose che il mio amico Amit, vegano anche lui da qualche mese, quando mi racconta il perché ha fatto questa scelta, insomma mi trascina e lo ascolto con trasporto. Però mi sembra di capire che Mauro Corona voglia affermare il potente concetto di libertà di scelta, o no Mauro? Questo è il concetto che sta poi alla base di tutto. Sì, assolutamente, ma oggi mi sembra che abbiamo proprio iniziato questo percorso su questa idea del ovviamente sono d'accordo anch'io se ci penso, però siamo guidati anche da un DNA, non dimentichiamo il DNA, è difficile volerlo cambiare. È ovvio che do ragione alla Maugeri se penso agli animali abbattuti, ma io non ci riesco. Quando mi capita mangio anche la carne, perché vivo anche una volta sola e ovviamente ho limitato di oltre, mangerò il 10% di carne. Ho fatto 2 anni il vegano per motivi di disintossicazione dall'alcol. Ho letto dei libri molto interessanti, ad esempio La dieta senza muco di Edward Eret, consigliatomi dalla mia cara amica, oppure L'alimentazione alcalina del dottor Andrea Grieco. Cioè sono documentatissimo, però quando mi capita l'occasione mangio anche la carne. Perché l'uomo nasce onnivoro, l'uomo, l'essere umano nasce onnivoro. Ma che cosa mangiavano quando rincorrevano gli animali? Nasce onnivoro e soprattutto anche carnivoro, andavano a caccia, andavano. Questo non significa che si debba. Io veramente vivo anche un conflitto, perché istintivamente sono a favore degli animali, però sono a favore anche dell'amore, e magari ci sono divorzi, ci sono, insomma, siamo pieni di contraddizioni. Pieni di contraddizioni. E dire che la nostra è il passo giusto, il sentiero giusto, e poi dobbiamo guardare un po' anche ad altri, guardarci accanto a questo sentiero. Siamo veramente etici perché non mangiamo più gli animali? Siamo generosi, qui vado in un altro campo, perché l'etica verso gli animali mi va benissimo. Ma siamo poi generosi, sappiamo perdonare, siamo tolleranti, siamo un paese di mezzi razzisti, e però vai a toccare l'animale. Io sono veramente un po' confuso da questo. No, su questo, sulle contraddizioni, io sono d'accordissimo. Ci sono persone che prima devono sistemare con affetto, lo dico, il loro cagnolino, poi se vedono un migrante per strada sputano per terra o dicono che schifo. Va bene, però non voglio entrarmi a zadarmi in questo discorso che è molto più ampio. Vorrei capire da Paola Maugeri perché, ma ce lo chiedono vari ascoltatori, perché anche le uova, il latte, i derivati, i latticini non vanno bene nella dieta vegana o nel modo di vivere vegano, perché sono sintomo di sfruttamento? Allora, innanzitutto, come diceva il mio conterraneo, il grande Sciascia, rivendico il mio diritto alla contraddizione. Noi siamo esseri umani e quindi contraddittori. Qui nessuno sta parlando di un'idea di coerenza impossibile da portare avanti, si sta soltanto parlando di un atteggiamento. È un percorso, ognuno fa il proprio, massima libertà di scelta nei confronti delle scelte di ognuno. Si inizia un percorso di autoeducazione, se no non ha senso arrivare su questa terra soltanto per saccheggiare e riempire le pance di cibo di cui non sappiamo niente e poi, come dire, morire arricchiti. Credo che il senso dell'esistenza di tutti noi su questa terra non sia questo, bensì un senso di autoeducazione, di crescita e di consapevolezza, che ci vuole una vita per raggiungerlo. Sì. Quindi questo per me è importante, rispondere alle parole di Mauro per non lasciare cadere gli argomenti. Detto questo, l'uomo innanzitutto nasce frugivoro, perché noi abbiamo il 99% di corredo cromosomico condiviso con i primati. Siamo diventati onnivori per adattarci, giustissimo, ma l'uomo era un rapporto paritario. 60 miliardi di animali all'anno che vengono uccisi adesso dentro dei lager di cui nessuno conosce neanche dove sono. Capite che stiamo parlando di un altro rapporto, di un'altra relazione. E perché invece appunto tutti i derivati, i latticini, le uova? Perché esattamente la stessa identica cosa. Io produco latte quando sono incinta per allattare mio figlio, non lo faccio per darlo ai bambini di un'altra specie. La mucca non è felice, ci hanno fatto credere che la mucca è viola e contenta. La mucca non è felice di dare il latte per altri, perché suo figlio piange allontanato dalla mucca e la madre piange con quel dolore di macchine attaccate per nutrire i nostri figli. Quando il latte specie specifico, mamma, bambino, mucca, vitellino, capra, capretto, non abbiamo bisogno del latte di un'altra specie per nutrirli. E così anche le uova. Per le uova. Certamente. Quindi Corona non è solo legata alla carne, il vegano, sai Mauro, che neanche le uova, neanche il latte, tutti i latticini, i formaggi. Lo so benissimo, ma che dai, ho il più sacro rispetto per le loro scelte. Ogni tanto mi muovono un sorriso, ma non è di ironia o di spottio, è un sorriso di così. Non posso più neanche più le uova, la gallina non sa per chi fa le uova, uno vuol mangiarsi l'uovo, perché se andiamo a ritroso di questo passo qui, ho detto, si arriva alla morte per fame. Non si può neanche tagliare la pianta, se è vero che soffre, appunto, come dicevo, seguivo il ragionamento di prima. Tagliamo le piante per farci la casetta, lo chalet di legno, lasciatele, andate a vivere sulla pianta come le scimmie. Su una cosa però siamo tutti d'accordo, l'infighettamento di Cortina, come Mauro, quello no, l'infighettamento di Cortina, ma, con tutto l'affetto per Cortina. Ma anche Cormaiero, sì, certo. Per concludere, Paola, ma questo libro alla salute che vuol dire? No, perché alla salute potrebbe voler dire tante cose. Significa alla salute, quando brindi ad una alimentazione più consapevole, quando brindi ad un'alimentazione mossa anche da coscienza e non soltanto da modelli culturali che abbiamo seguito, perché comunque il fatto di mangiare carne viene considerato giusto solo perché è socialmente condiviso, ma ripeto, non c'è niente di giusto, di etico, di umano nell'ammazzare 60 miliardi di animali all'anno. Quindi significa questo, sono delle ricette di succhi, frullati verdi, il trionfo di un cibo compassionevole in ricette per me assolutamente gradevoli, anche perché l'ho fatta io, l'ho scritto io, ovviamente non manca una parte di filosofia del cibo, no, che alla fine è quella cosa che mi muove, perché la cosa come abbiamo detto, insomma, siamo anche quello che mangiamo. Io ringrazio Paola Maugeri, ricordo settimana prossima in libreria Alla Salute, così come ringrazio Mauro Corona, anche lui l'ultima sua opera letteraria è I misteri della montagna, Arnoldo Mondadori editore, grazie per essere stati con noi. Ma Marco da Reggio Emilia, ci sono da lei, è dopo il traffico però. Allora Marco da Reggio Emilia, buongiorno. Buongiorno Milan, complimenti per la trasmissione. Dichi. Allora, io due cose veloci. La prima è che da un paio d'anni abbiamo scoperto che mia figlia soffre un po' di colesterolo, quindi abbiamo cambiato un po' alimentazione, cereali, eccetera. Ma continuando a dare carne quando serve, uova una volta a settimana, eccetera. Perché? Vabbè, lei fa semplicemente un'alimentazione equilibrata. Ecco. Sana, corretta, equilibrata. L'altro giorno sul giornale, sul Messaggero, credo, c'era un articolo di una coppia vegana che alimentava il loro figlio in maniera vegana e è stato tolto dagli su tutti i giornali. Lì però sa qual è il pericolo, Marco? Secondo me lì erano più degli imbecilli. Prescindere, questo a prescindere, però no, la cosa che volevo chiedere alla Maugeri, e mi dispiace che non è più in linea, è da quale principio si sente di essere una madre migliore perché vegana rispetto a una madre normale, tra virgolette, che fa un'alimentazione normale. È una scelta, adesso non è qui a rispondere, ma un po' ce l'ha detto, possiamo desumere da quello che ha detto, cioè per il rispetto di tutti gli esseri viventi e quindi tutti gli animali, tutti insegnare il rispetto di tutte gli esseri che vivono su questa terra e non torcendo un pelo a nessun animale. Credo che questo la faccia sentire migliore, poi sa, ognuno può pensare quello che crede. E, Marco, la ringrazio comunque per il suo contributo. Ho detto che noi andiamo avanti fino alle 9.30, lo sapete, e parleremo poi di Roma capitale, del comune di Roma, degli scioperi bianchi nella capitale, per capire anche se le metropolitane vanno o non vanno. C'è tempo ancora per un ascoltatore o devo dire la segreteria telefonica? C'è un ascoltatore? Sì. Come si chiama? Vincenzo, da Como. Buongiorno Vincenzo. Sia rapido. Buongiorno, per rapidissimo, no? Mi riferivo a quello che sto studiando prima, il dibattito fra il vegano e il non vegano. Sì. Io ho tanti amici vegani con i quali purtroppo ho spesso delle discussioni perché loro hanno una veemenza nell'affermare le loro opinioni, che è veramente inaccettabile. Però quello che mi ha dato fastidio maggiormente è proprio l'atteggiamento che ha la moglie nel momento in cui dice: siccome io sono vegana, sono una mamma migliore, sono un'imprenditrice migliore, sono si sente migliore. Non mi sembra, ma non mi sembra, cioè non è che se io mangio la carne sono un peggio di lei. No, ma non è un io adesso l'etica è una questione che non ha niente a che fare con l'alimentazione. Capisco, insomma, Vincenzo, quello che lei dice, ma non credo che volesse dare un giudizio negativo verso gli altri, ma positivo verso se stessi. Io l'ho letto così, cioè mi sento migliore. Comunque, la nostra segreteria telefonica. Milan Mattiniero, Balabut dell'informazione. Alexandros, Milanos, Varifanculos. Vorrei dire basta a questa classe politica che va a fare la passerella di prima donna in Grecia con la pancia piena in mezzo alla gente con la disperazione. Basta. Quando tutto è perduto, la stampa imbavagliata, le edicole distrutte, i giornali in crisi, serge a difesa dei deboli ed oppressi lettori italici un uomo uscito dalla fantasia di uno scrittore, Alessandro Milan, un nome e una garanzia di libertà, Alessandro Milan, Varoufakis degli italici lettori, Alessandro Milan, il magnifico strillone. Signore Milan, che possiamo fare qui? Manco Santo Giuda, lo padrone delle cause perse, ci serve più. La zappa non basta più, la mazza da 10 chili e spacca la pietra sulla cava. Ecco, questo devono fare. Te saluto. Ti salutiamo. Allora, dopo le 9, gli scioperi bianchi nei mezzi di trasporto metropolitane a Roma. State con noi. Il segnale orario vi è offerto da Gran Moravia, con l'etichetta multimediale, ti fa visitare la sua filiera ecosostenibile. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Sebastiano Barisoni. Parliamo di mercati finanziari e di borsa, ma una volta tanto non di quella di Atene e dei mercati europei. La borsa di Shanghai infatti dal 12 giugno ha perso circa il 30% del suo valore, un terzo è stato infatti bruciato in continui ribassi che, stando a molti analisti, sono tutt'altro che terminati. Le autorità cinesi sono molto preoccupate di questa continua caduta dei valori azionari dopo che la borsa di Shanghai e anche quella di Shenzhen erano cresciute costantemente da inizio anno e anche nei mesi del 2014 grazie a una politica di facile accesso alla liquidità seguita dal governo di Pechino. Da inizio giugno però tutta la musica è cambiata. Da un lato i timori di bolla hanno portato a vendere molti investitori, dall'altro c'è chi ritiene che le continue e costanti tensioni tra Stati Uniti e Cina abbiano spinto molte banche d'affari americane a vendere titoli cinesi come messaggio che, più che finanziario, sarebbe a questo punto politico. La risposta di Pechino è stata un quantitative easing alla cinese, ossia grosse iniezioni di liquidità agevolata per arginare il crollo dei listini e delle borse di Shanghai e Shenzhen. Non è però chiaro se questo basterà per fermare l'ondata di vendite, né è chiaro quanto queste vendite si ripercuoteranno sull'economia reale cinese, che sta crescendo a un tasso del 7%, in Europa sarebbe un miracolo, ma in Cina è la crescita più bassa da 20 anni a questa parte. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Sono le 9:08, ben ritrovati da Alessandro Milan, andiamo in diretta fino alle 9:30. Allora, cari ascoltatori, soprattutto amici di Roma, come va oggi a Roma? Come va? Vanno le metropolitane? Tutto a posto? No, scrivetecelo al 349-238-6666 come messaggio, oppure se volete chiamarci all'800-24-0024, perché da due giorni pare che ci sia uno sciopero bianco, l'hanno chiamato così, a Roma. Di chi? Beh, dei dipendenti dell'azienda municipalizzata contro il nuovo piano aziendale, per cui molte vetture escono dai depositi in ritardo. Secondo il sindaco Marino è tutto dovuto a una cosa molto banale, cioè il sindaco ha voluto introdurre un badge per controllare quando si inizia e si finisce il turno di lavoro, e questo non è piaciuto. Marino: c'è stato un servizio molto scadente sulle nostre metropolitane che ha danneggiato la vita delle romane, dei romani e dei tanti turisti che vengono nella nostra bella città ogni giorno, perché ho preteso che da poche settimane i macchinisti della metropolitana timbrino il cartellino in entrata e in uscita. A me sembra una cosa banalissima, eh? Che è successo? Che poi la gente si arrabbia. Abbiamo ragione, perché allora vi siete lamentati che avete sti cazzo dei badge invece di pensare. Non vuoi vedere il mio badge quando va a timbrare la mattina e se scarro 5 minuti me li danno lo stipendio. E poi è sempre così, qualcuno che dice devono morire, è sempre così, poi finisce con la gente contro la gente. Ancora, sentite Marino, eh? Trovo anche inaccettabile che a Milano i macchinisti guidano 1100 ore l'anno, a Napoli 950 e a Roma solo poco più di 700 ore l'anno. Beh, se i dati sono questi, effettivamente è abbastanza inaccettabile, ma la gente si arrabbia. Non c'è giustificazione, ma dalla qualcuno i sindacati se vedendolo per il culo. E vi paghiamo noi che lavoriamo nel privato, capito? È il caffè col cazzo che tu pi, pezzo di merda! Cosa vuol dire l'orario di lavoro? Allora io saluto Carlo Bonini di Repubblica, buongiorno. Buongiorno a voi. Non c'è pace, non c'è pace per Roma, e tra l'altro poi parleremo anche della questione politica, che se volete è ben più seria, ben più profonda, ben più radicata, perché potrebbe incidere di più sulla questione che succederà nei prossimi mesi. Però adesso Roma si ritrova anche con questa cosa. Lo chiedo a te, che sull'ATAC hai fatto anche delle inchieste su Repubblica, su come è gestita, sull'azienda di trasporto. Ma che sta succedendo? È davvero, sono queste le cifre date da Marino? Ma Marino non ha dato le cifre vere, io diciamo, con una battuta peraltro direbbe a Roma, la verità è che la città e il suo sistema dei trasporti è al capolinea, siamo proprio al capolinea. Tutte e due, sistema dei trasporti e città. Trasporti e città, e in qualche modo non è, ahimè, non è sorprendente quello che sta accadendo, nel senso che da una parte il sindaco legittimamente cerca di adeguare agli standard, a standard minimi europei la qualità del servizio, e dall'altra però il materiale con cui lavora è quello che è. E quando dico materiale intendo sia il materiale rotabile, quindi evidentemente la qualità del parco mezzi circolante, sia su ruota, su binario, e quindi le metropolitane, i treni di superficie, sia a maggior ragione il parco automezzi. Sì. Ma parlo anche del capitale umano con cui il sindaco ha a che fare. A Roma, in particolare, poi per quanto riguarda i trasporti, i sindacati hanno giocato partite non sempre, e anzi assai spesso, poco limpide. Anche questo sciopero bianco, che diciamo in qualche modo formalmente rivendica un diritto che è un diritto dei lavoratori, quindi dei macchinisti, sì, e in qualche modo anche dei passeggeri, cioè di viaggiare su carrozze degne di questo nome, che per esempio in giorni con temperature medie di 36-37 gradi e umidità al 90% abbiano l'aria condizionata funzionante. Certo, è singolare, diciamo, che questo è che siano soprattutto vetture sicure, è singolare che questo, diciamo, questa legittima rivendicazione cada proprio in giornate come queste, sì, e cada nel momento in cui diciamo, il sindaco alza l'asticella, come dicevo prima, a livelli minimi di capitale europea, cioè pretenda in qualche modo che l'orario di lavoro dei macchinisti venga rispettato, ma anche perché è davvero incredibile, cioè davvero incredibile. 700 ore l'anno a Roma, mentre a Milano 1100 e a Napoli 950. È incredibile, io quello che trovo incredibile in qualche modo, poi questo dicevo prima, la città e il sistema dei trasporti a capolinea, trovo incredibile l'aggettivo utilizzato dai sindacati per in qualche modo censurare la decisione del sindaco. Lo hanno definito una decisione unilaterale, sì, Ma che vuol dire? Il badge dovrebbe essere la cosa minima per un qualsiasi lavoratore, un lavoratore dipendente pubblico. Sappiamo le inchieste anche di gente che si fa timbrare il badge e poi dopo va a fare shopping. Esattamente, però questo te la dice lunga. Sai, quando un sindacato ritiene di definire unilaterale una decisione che riguarda, ripeto, appunto il badge, e quindi banalmente uno strumento di controllo che l'orario di lavoro venga rispettato. Siamo proprio al capolinea. Siamo al capolinea. Ti racconta anche il tipo di rapporti che in questa città ci sono stati negli ultimi non mesi o anni, ma decenni. Tra l'altro, Carlo Bonini, fammi presentare la vicepresidente dell'Istituto Bruno Leoni, Serena Sileoni. Buongiorno Sileoni e benvenuta. Buongiorno a lei, buongiorno a voi. Perché l'Istituto Bruno Leoni è stato molto tranchant ieri a commentare questa situazione dello sciopero bianco, e cioè che bisognerebbe fare? Bisognerebbe che i cittadini, che sono fin troppo pazienti a mio avviso, veicolassero la loro rabbia o la loro ormai arrendevolezza andando a qualsiasi stazione dei carabinieri a denunciare l'interruzione di pubblico servizio. Perché quello che sta avvenendo non è nient'altro che un reato. Come è dimostrabile? Perché sa, arriva una metropolitana un po' più tardi, un po' più lenta, un po' più... come può un cittadino dimostrare, non ha un cittadino dati alla mano, se uno sta lavorando, se uno è uscito 5 minuti in ritardo dal deposito rispetto a... No, però per esempio può, questo è ad esempio quello che ho fatto io, può fotografare l'orario di arrivo, ci sono sempre gli orologi nelle stazioni, nelle fermate, può fotografare l'orario di arrivo e fotografare l'orario in cui arriva la metro. Io ho aspettato circa più di 60 minuti perdendo peraltro 2 biglietti del treno. E 60 peraltro, minuti per una metropolitana, 60 per minuti. Per due fermate per arrivare alla stazione Termini, perdendo 2 biglietti del treno. Perdendo il treno. 60 minuti per due fermate non ci posso credere, è una roba da terzo mondo, non da capitale d'Italia. E le dirò di più, la traccia degli orari deve essere è sicuramente tenuta dal servizio, quindi diciamo, per quanto possa essere dubbiosa la buona fede del cittadino, poi la traccia resta dell'orario di partenza delle corse. Quando io sono andata a chiederlo all'operatore in servizio, non me le ha volute far vedere, ovviamente, però immagino che davanti a un ordine di esibizione sia un po' difficile mostrare la resistenza che è stata mostrata a me. Insomma, cercare di far valere le proprie ragioni. Vabbè, ci scrive anche un'ascoltatrice dicendo che in via Cristoforo Colombo è bloccata per un incidente da un'ora, ma effettivamente abbiamo sentito nel traffico oggi c'è stato un grave incidente, quindi non passate per via Cristoforo Colombo, questa è un'altra questione di viabilità. Però Sileoni, che bisognerebbe fare? Cioè, di fronte ai dipendenti che fanno questo sciopero bianco, è un reato, il che vuol dire che rischierebbero che cosa? Beh, uso il condizionale perché si sa, in Italia non si rischia quasi mai nulla. Sì, allora, la differenza, allora, i cittadini sono completamente inermi e questo lo sappiamo. L'unica cosa che possono fare un po' più costruttiva della rabbia che covano dentro, che magari poi sfocia anche in maniera poco proficua, è appunto quella di tentare la denuncia di interruzione di pubblico servizio, perché la differenza tra uno sciopero che è legittimo e un incrociare le braccia è il fatto che non si rispettano le formalità previste. Sì. Ma la grande mancanza, la rabbia dei cittadini e diciamo il fatto che fondamentalmente esporre una possibile notizia di reato sia forse un tentativo così disperato proprio, sta nel fatto che il sindaco può fare tutti i video che vuole di solidarietà, ma poiché l'ATAC è una società pubblica, ne risponde lui? Ma soprattutto la dirigenza dell'ATAC risponde nei suoi confronti. Allora capisco che ci possono anche volere qualche ora, non penso qualche giorno, credo che ci voglia soltanto qualche ora per capire quali macchinisti hanno deciso di non lavorare e quali no, ma di sicuro ci vuole molto meno tempo per rimuovere i vertici aziendali. Io mi chiedo se mai una società privata che possa svolgere un servizio analogo possa così impunemente continuare a farlo, continuare, no, certo, senza che i dirigenti possano. E beh, questo è un aspetto interessante. Carlo Bonini, però, abbiamo raccontato che, come dire, è solo, se vogliamo, l'ultima tegola che riporta Roma in primo piano, perché in realtà Roma, Roma capitale, è sulle prime pagine dei giornali anche oggi, perché a giorni, domani, dopodomani, ma la decisione sembrerebbe già presa, il prefetto Gabrielli dovrà comunicare al ministro dell'Interno Alfano la propria decisione su quello che sarebbe il consiglio da fare, cioè sciogliere o meno il comune di Roma per mafia. L'intendimento di Gabrielli pare essere quello di non sciogliere il comune per mafia, è così, Bonini? Sì, è così. Ieri c'è stato questo lungo comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, a cui non ha partecipato il sindaco per ovvi motivi, ma ha partecipato il procuratore della Repubblica Pignatone e i vertici delle forze dell'ordine, ha partecipato anche Marilisa Magno, il prefetto che aveva guidato la commissione di accesso agli atti del comune, quella consegnata il 16 giugno scorso, questo monumentale lavoro da 1000 pagine che doveva verificare la legittimità dell'azione amministrativa negli ultimi anni da parte della giunta capitolina. E all'esito di questa discussione, l'orientamento che aveva già maturato Gabrielli, cioè quello di non sciogliere il comune per mafia, è stato confermato. Il che vuol dire che cosa? Che Alfano poi dovrà decidere, però chiaramente terrà molto conto, immagino, sì, della posizione di Gabrielli. Anche perché in realtà è per quello che è stato possibile ricostruire poi ieri sera alla fine del comitato. Questa decisione di non sciogliere si accompagna a un altro, diciamo, a una seconda decisiva proposta importante, importante che farà il ministro, che sarà quella di procedere con, diciamo così, commissariamenti selettivi invece di alcune figure chiave della dirigenza. Sì, questo è interessante, cioè ho letto anche su Repubblica commissariare i dirigenti corrotti, sì, o collusi con questo grumo di potere. Esatto. E lo stesso che vuol dire? Cioè, nel senso che non so, alcune persone... Il capo del dipartimento, io dico per dire, sto facendo evidentemente, sì, un esempio, il capo del dipartimento X o Y, responsabile, non so, della casa piuttosto che del verde urbano. Viene commissariato. Cioè, viene commissariato, cioè viene sostituito da un viceprefetto che quindi assume in toto le funzioni e il controllo di questo. A me sembra la cosa più intelligente, perché abbiamo sempre detto che poi sono lì i gangli dove si annida la corruzione possibile. Io credo che sia un'intuizione, peraltro, che fotografa la situazione, diciamo, la malattia grave della città, che in qualche modo, diciamo così, mette sotto tutela doppia la giunta, che da questo punto di vista è completamente disarmata. Io scrivo stamani su Repubblica, voi dovete immaginare che di tutte le figure, diciamo, non necessariamente apicali, ma insomma di tutti i funzionari, dirigenti della pubblica amministrazione, in qualche modo coinvolti dall'indagine mafia capitale, la giunta in questi mesi non è riuscita a spostarne neanche uno, né è riuscita a sospenderli dalla funzione e dallo stipendio. Questo non perché la giunta sia incapace, ma perché poi noi abbiamo le pieghe delle leggi che non, che non impediscono. Un funzionario pubblico, per essere trasferito, bisogna aspettare la sentenza di Cassazione. E da questo punto di vista vorrei chiedere, professoressa Sileoni, che lettura dà di un'azienda pubblica come quella del Comune di Roma, da quello che ha letto, da quello che ha visto, da quello che emerge dalle carte? Beh, è l'amministrazione in senso ampio, quindi compresa la gestione politica e amministrativa italiana al quadrato, nel senso che è un luogo dove, per il fatto di essere la capitale d'Italia, vengono amplificate tutte le storture rispetto al buon andamento dell'amministrazione e anche del governo del territorio che si possono registrare altrove. Anche la vicenda questa vicenda che sta raccontando di questa astensione dal lavoro, che non so fino a che punto si possa chiamare sciopero bianco, in realtà dimostra che le regole ci sono anche ci sono tutte molto spesso, compreso in questo caso, c'è una legge sugli, che regolamenta gli scioperi, c'è addirittura la sempre tanto invocata autorità di garanzia indipendente, c'è un codice penale, ma non succede niente, perché al di là della legge, e questo vale non soltanto per la vicenda della metro, ma per tutta la vita quotidiana amministrativa e di gestione del territorio dell'Italia e quindi a maggior ragione di Roma, la legge è carta che si interpreta per gli amici e non si applica per i nemici. Intanto, in un paese in cui le relazioni sindacali sono così forti al di sopra della legge, succede è la legge questa. Che quasi non può fare niente. Intanto Ignazio Marino, sindaco, oggi fa un'intervista all'Unità e dice: mi sento come quando in sala operatoria togli il fegato al paziente, sai che hai 45 minuti per rimettere quello nuovo, ogni punto deve essere millimetricamente messo al posto giusto, i parenti fuori aspettano da ore, ma tu già sai che ce l'hai fatta. Ecco, mi sento con quell'adrenalina in corpo lì, il giro di boa è avvenuto e ora rattopperemo le buche, arriveranno i nuovi autobus, avremo più scuole per l'infanzia, la possibilità di curare e potare il verde, metteremo mano alla viabilità. La nostra amica che ci ascolta da Via Colombo, bloccata un'ora dal traffico, forse ha tirato in questo momento un'imprecazione. Cioè Marino va avanti e dice: ora svolta, mi sento mai bene come in questo momento. Va bene, io ringrazio Carlo Bonini di Repubblica, inviato di Repubblica, e Serena Sileoni, vicepresidente dell'Istituto Bruno Leoni. Mi fermo qui con Elisabetta Fusconi, Alessandro Longoni e Lorenzo Nespoli, insieme al nostro Peter Bescapè in regia. Vi do appuntamento a domani, siamo sempre puntuali qui più o meno alle 6:30 su Radio 24.